radio, giornali e riviste. Vi siete coalizzati per distruggere le menti, per farci diventare delle vostre conquiste, che vogliono benessere e vivono negli stenti. Ciò che dice la TV per tutti ormai è legge. Eccolo il prodotto, non te ne dovrai pentire. Se alzi la tua testa in questo immenso gregge, fan subito vedere Italia-Brasile. Che bello è il lavaggio del cervello. Che bello è il lavaggio del cervello. Voi credete forse di poterci manovrare, girare e rigirare come delle marionette. La gente adesso è stufa, ci vuole ragionare, vuol capire il perché di queste ferette. Eccola la meta, ecco il vostro gioco, spingere le masse nella vostra direzione. Ciò che accade in strada è ancora troppo poco, ci siamo già stufati di questa situazione. Che bello è il lavaggio del cervello. Giornali e riviste, vi siete coalizzati per distruggere le menti, per farci diventare delle vostre conquiste, che vogliono benessere ma vivono negli stenti. Ciò che dice la TV per tutti ormai è legge, eccolo il prodotto, non te ne dovrai pentire. Se alzi la tua testa in questo immenso gregge, fan subito vedere Italia-Brasile. Che bello è il lavaggio del cervello. Voi credete forse di poterci manovrare, girare e rigirare come delle marionette. La gente adesso è stufa, ci vuole ragionare, vuol capire il perché di queste ferette. Eccola la meta, ecco il vostro gioco, spingere le masse nella vostra direzione. Ciò che accade in strada è ancora troppo poco, ci siamo già stufati di questa situazione.